24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Dai che è venerdì, dai che è venerdì, lo dico a Miriam Lucchetti che esulta, lo dico a Filippo Reggi impassibile in regia, non proprio commenta, non me ne frega niente, questo dice. Allora, è venerdì, siamo qua per i vostri messaggi 349-238-6666, questa è 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9, la nostra saracinesca è pronta ad alzarsi del nostro bar, ovviamente, il bar a Radio 24. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre, Nicole Minetti, che ieri pizzicata la zanzara dal nostro Giuseppe Cruciani, ha detto: vi voglio bene, tu, e ha messo giù così. Allora, chi abbiamo sbrandato oggi il venerdì? Mario Secchi, direttore del Tempo, buongiorno e benvenuto. Ha dato la parola giusta. È sbrandato, e vi tiriamo giù dal letto insieme ad Alessio Vinci. Ben ritrovato Alessio, eccoci qua. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sentite, io ce la metto tutta a mettere sempre la voce, no? Ma giustamente sono le 6:30. So io come ringraziare, ecco, un bel caffè, una bella moca per tutti. Vi voglio fare ascoltare Fiorello per il terzo giorno consecutivo, perché ci sono delle notizie incredibili anche dalla Regione Lazio, l'inno della Regione Lazio che è diventato ormai storico, cantato davanti alla finanza. I bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e con Fiorito se ne sta. Allora, dobbiamo fare tornare indietro a ieri, riavvolgere il nastro. L'onorevole Mario Tassone, ve lo ricordate, ieri qui alle 8:15 a dire: il mio vitalizio, 6.800 euro, è molto modesto, è dal 76 in Parlamento, sentite cosa ci ha detto. Ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante leggi. Molto modesto, ma hanno detto 6.800 euro. Molto modesto. Poi Tassone ha finito la telefonata in maniera un po' indispettita, eh? Io la saluto moltissimo. Vabbè, grazie. Io parlavo nonno del netto, parlavo ovviamente del sì, però molto modesto, molto modesto, capisce che 6.800 euro, molto modesto. Sì, beh, saranno 3.500 in tutto, perciò ed è uno modesto. Pensa che ci siano 10, quindi se lei è qualsiasi direttore generale prende molto di più. Allora lei ovviamente deve farsi un quadro di riferimento più serio, l'auguro sì. Moltissimo, grazie. Che me la mantengono alla Radio 24. Grazie. Mi auguro anch'io che mi mantengano qua. Che lei fa, ovviamente sono di bassa lega. Va bene, la ringrazio. È finita così. Io sono qua, vi auguro che mi mantengano. Tassone invece ieri ha dovuto rassegnare le dimissioni da vice capogruppo alla Camera dell'UDC. Mario Secchi, Alessio Vinci, vogliamo partire da qui, perché poi c'è qualcosa sulla Regione Lazio che mi interessa farvi sentire. Mario Secchi, per carità, le dimissioni da vice capogruppo dell'UDC cos'è? Niente. Però zero, cioè non è più vice capogruppo dell'UDC, però ce ne faremo una ragione. Però è incredibile, cioè, ma non hanno come dire, non c'è un minimo di della realtà. Non hanno la percezione della realtà. 6.800 euro sono lordi, il ricco stipendio di un dirigente d'azienda che ha responsabilità grandi e una pensione molto ricca. Tenete presente che per avere una pensione così bisogna aver versato da lavoratore, dipendente o da professionista tanti soldi. Sì. Tassone, non so cosa abbia versato, ma sicuramente... Beh, dal 76 in Parlamento, dal no? 76, certo, dal 76 in Parlamento, quindi... tra l'altro... Poi, mi presenti un'altra cosa, sì. Alessandro, che... Per avere quella pensione, oggi un lavoratore che ha la mia età, io ho 44 anni, deve faticare all'infinito e non ha alcuna certezza di arrivare a una cifra del genere. Anzi, allo stato attuale, per come siamo messi con le proiezioni demografiche è i conti economici e la pensione è più facile che non la pigliamo. Eh no, infatti. Ma tra l'altro tra poco devo dirvi due cose della regione Lazio. Prima però vorrei, forse con Alessio Vinci. Alessio, non so se hai un parere. A me vogliono prepensionare. Infatti, ma subito. Allora facciamolo subito sentire, così ti facciamo ritornare a domenica scorsa, domenica live, quando Formigoni, ma tranquillo Formigoni anche a me ha detto non mi faccia queste domande, sennò poi il suo editore la licenzia, che poi devo pensare, oh Tassone, mi auguro che la lasciano Radio 24, Formigoni attenzione che la licenzia, io comincio a toccare ferro e quando finisce il ferro vado avanti, insomma. Qua comunque Formigoni domenica scorsa da Alessio Vinci. Sì, bravo, è un comiziante da strapazzo, me lo lasci dire, è un comiziante da strapazzo e avrà la sua bella querela. Torno a dire, intanto è arrivata la querela, Alessio? Che io sappia no. No, però il problema è un pochino più serio. Ieri avevamo Del Debbio e sia Del Debbio che te siete citati come persone delle quali qualcuno ha chiesto la testa, forse Formigoni stesso, all'interno del partito, ovviamente, del Popolo della Libertà. Come dire, non mi risulta che sia stato direttamente lui, però. Ma risulta che ci sia qualcosa? Gli risulta un grandissimo malumore, ma questo non serve un articolo del giornale oppure la testa di Vinci o Del Debbio per capirlo, insomma basta sentire anche Daniela Santanchè ieri. C'è un grandissimo malumore all'interno del partito, là dove c'è malumore c'è paura forse di perdere un posto di lavoro e quindi si spara a zero nel mucchio. Tra l'altro guarda, non è la prima volta che mi capita, io in 20 anni di giornalismo mi sono ritrovato con la foto su tutti i telegiornali a Belgrado durante i bombardamenti come il nemico pubblico numero uno perché Milosevic non gradiva le mie corrispondenze. Quando ero alla CNN. Ecco, però, qualche anno prima un tale Shamil Basayev, che più non dice niente, accidenti, ma era il terrorista numero uno russo, il mitico quello che organizzò Beslan per intenderci. Certo. In Cecenia mi fece cercare dai suoi, insomma. No, però ecco, tu citi due cose, Alessio, scusami, due cose molto drammatiche, due cose importanti, ma non fammi fare un paragone, cioè siamo a livelli un po' più seri negli esempi che hai citato, cioè qui siamo a questioni veramente, queste sì, uso le parole di Tassone, di bassa lega. Ho fatto il paragone per drammatizzare, cioè allora erano due cose molto serie. Questo secondo me è uno sfogo di alcuni deputati o di alcune persone che magari non hanno gradito una linea editoriale, ma insomma noi tra l'altro abbiamo totale libertà in questo momento di portare avanti le nostre trasmissioni così come vogliamo, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di pressione, almeno diciamo di reazione aziendale, diciamola così, insomma, quindi noi siamo. Ho capito, ma è tutto normale, cioè uno fa il suo lavoro, fa delle domande critiche, giustamente, fa delle domande un po' puntute e siamo ancora col politico che alza il telefono e dice cacciate quello lì, questo è il dato di fatto. Esatto, questo forse è il dato più drammatico della faccenda, che ancora oggi possano succedere queste cose nel nostro paese. Io quando l'ho raccontato ai miei fratelli e mia sorella, insomma, che vivono uno a Parigi e l'altro a Londra, erano basiti perché pensavano che cose di questo genere succedessero soltanto appunto nel Medioevo o durante l'Inquisizione o durante la guerra, cioè io posso capire che Basayev simpatico o che Milosevic, voglio dire, cioè quando si è in situazioni davvero drammatiche, però Mario Secchi è così, il dato di fatto è questo, cioè ieri avevamo Paolo Del Debbio, oggi Alessio Vinci, due persone che scrivono i giornali sono sulla graticola perché qualcuno non è piaciuto il modo di fare giornalismo. Ma sai Alessandro, quando dai le notizie e fai le domande, che sia in TV o che sia appunto sulla carta stampata o sul web o sulla radio, diventi subito, no, come dire, l'oggetto di un tiro al bersaglio. Alessio ha citato sui casi, potrei farne tanti anch'io, e sono tutti andati a vuoto per fortuna, nel senso che poi chi non solo era infastidito ma chiedeva il mio licenziamento non lo ha avuto, e questo va ad onore di chi poi fa l'editore, chi è stato editore durante la mia carriera e chi è presente, io di giornali ne ho fatti 7, quindi non pochi. Comunque questo succede purtroppo, ma per carità le pressioni succedono, però guarda, voglio dire, posso dirti, fanno parte del mestiere. Quando non ne hai, vuol dire che non stai facendo bene il tuo mestiere. Questo è anche vero, questo no. È anche vero, assolutamente. Allora, i giornali, ve lo dico, parlano dell'unione bancaria, soprattutto come titolo d'apertura. Poi c'è ancora Fini, la casa di Monte Carlo e le pressioni su di lui. Questo alcuni giornali come Libero apre su questo. Voglio raccontarvi due cose a Regione Lazio, che sono: A, lo shopping contromano del governatore Renata Polverini, questa è l'accusa, via del Corso attraversata contromano in macchina per andare a fare shopping, a comprare le scarpe, e il presidente del Consiglio regionale del Lazio abruzzese che con l'auto blu ha preso 50 multe per eccesso di velocità. Indovinate un po' chi le pagherà queste belle multe. Caffè, caffè, sì, caffè, caffè. Grazie. Ma 5 caffè, veloce! E non lo fare acqua! Come può uno scoglio arginare il mare? La performance canora già epica di Renata Polverini, Torno già a volare le distese azzurre, io non c'ho voce. E qui era in auge quando faceva la campagna elettorale. Allora è stata pizzicata, pare, a fare contromano, questo raccontava una cittadina di Roma che ha pedinato questa macchina, contromano con l'auto blu via del Corso per andare poi a comprare delle scarpe. Sentite Renata Polverini, la giustificazione è stata ieri via agenzie: la mia non era un'auto blu ma il mezzo della scorta. Cioè, praticamente Alessio Vinci, va bene, contromano, via del Corso, fatto, shopping. È stato confermato che era lei. Sì, esatto. Va bene tutto, ma non dite che era l'auto blu, perché esatto, era l'auto della scorta. No, poi tra l'altro l'altra notizia, se non sbaglio, è che lei ha chiesto la sospensione. Ah, sì, ha chiesto la sospensione di questa scorta. Ha chiesto. Sì, è vero. Ha chiesto toglietemi la scorta. E poi c'è il presidente del Consiglio regionale abruzzese, oggi in prima pagina del Messaggero, ma forse anche Mario Secchi, tu ne parli sul tempo? Sì, perché io c'ho sta lamentela da fare, cioè non mi arriva mai il tempo, non ho capito come mai. Portatemi una copia, se tanto ormai vi sveglia a quest'ora, portatemi una copia. Comunque il presidente del Consiglio abruzzese che ha fatto 50 multe sulla 1, l'autovelox, l'auto blu, insomma, l'autovelox, auto blu. Questo ha fatto, no, Secchi, praticamente? Sì, abbia fatto questo. Chi paga in questo caso? Auto di servizio. Chi paga? Paga l'ente. L'ente? La regione? Paga la regione e i punti li devono all'autista di turno. Sì, all'autista. All'autista c'è quello di... Cioè l'autista tolgono i punti. No. Certo. Ma non ci credo. Secondo me per questioni di servizio non glieli tolgono. Glieli tolgono. Ti garantisco, io conosco parecchi autisti delle istituzioni, Camera, Senato e così via. Ecco perché ne hanno tanti. Che fanno le raccolte punti ormai. Ecco perché ne hanno tanti, ogni 3 mesi devono togliere patenti. No, è così. Mi sa che è così. Alessio Vinci, chi è il politico secondo te in questo momento più interessante da intervistare? Forse Gianfranco Fini ha qualcosa da spiegare? Sono sempre quelli che non parlano mai, diciamo. Infatti. Ma sì, senz'altro. Tra l'altro lui aveva fatto diverse promesse di dimissioni, se fosse stato in qualche maniera chiaro, provato che Tulliani fosse il proprietario di questa casa, adesso mi sembra fuori discussione, quindi lui invece dice no, io non ho mai detto bugie. Insomma, mi sembra di capire che anche lui, ma non soltanto lui, ormai hanno ormai un modo e un atteggiamento nei confronti non tanto nostro del giornale o dei giornalisti, perché poi sai, alla fine non siamo importanti noi insomma, siamo solo un mezzo attraverso il quale questi politici devono parlare. Io penso che la gente ormai si sia stufata proprio di questo tipo di comportamenti, non tanto dei contenuti, ma proprio della poca voglia di chiarire, poca voglia di essere, come dire, spontanei e onesti nelle proprie azioni. Questo secondo me è forse il vero dato di quello che stiamo vivendo noi in questo periodo. Lascia stare l'antipolitica in sé, sì. È proprio una questione che la gente non ha più voglia di essere presa in giro, e quindi ad ogni risposta non data, ad ogni multa non pagata, ad ogni strada presa contromano, se una volta veniva considerata magari come il potere della politica o anche una goliardia, adesso la gente non è più disposta ad accettare questo tipo di comportamento e quindi si rivolge altrove. Ma quello poi io mi domando dico... è se questo altrove sia davvero qualcosa di meglio o meno, perché infatti, poi come al solito quando si spacca tutto poi bisogna vedere che cosa rimane. E che poi quest'altrove chi sarebbe? Beppe Grillo è il nome più, no? Quello che in alcuni più casi alternativo. Quello che comunque è ancora tutto da vedere, perché insomma è una persona che ancora di, per quanto riguarda i contenuti, per quanto riguarda proprio un programma diciamo concreto e elaborato, non si sa niente. C'è gente come me, come Matteo Renzi, che se non altro ha dato un colpo di vitalità a una campagna elettorale, a un partito che era, non dico morente, ma che comunque faceva difficoltà a trovare un polo, comunque trovare una presenza di spirito, diciamo così. Perché poi, qua partito anche, no, ma è chiaro, partito morente da una parte, partito morente anche dall'altra. Mario Sechi, mi sembra di poter dire, a Santanché ha detto che è morto, anche è finito anche il Partito Popolo della Libertà, cioè finito tutto. E che rimane in queste macerie? Intanto il mio titolo di stamattina sul giornale è abbastanza eloquente, cioè? L'autorottamazione del PD. L'autorottamazione, anche lì. Stanno facendo tutto da soli. Tutto da soli. Non c'è bisogno neanche di dargli una... Ma che rimarrà? Cioè, voglio dire... Ma no, cioè, allora, come tutte le storie di fine regime, qua ovviamente stiamo assistendo al declino di una stagione politica che è quella del berlusconismo e dell'anti-berlusconismo, attenzione, perché le due cose stavano insieme. È chiaro che mancando l'elemento fondante, cioè il cavaliere dallo scenario politico come protagonista, anche i suoi nemici non hanno più senso di esistere. Quindi noi abbiamo due classi politiche, quella che fece Forza Italia, perché quella è, poi, no? È anche Alleanza Nazionale, diciamo così. È quella del PD che stanno decadendo. Sì, c'è da dire che forse però nel PD mi sembra un dibattito di, nel PDL mi sembrano macerie, nel PD allora, mi sembra un dibattito un po' PDL più siamo alle macerie per assenza di classe dirigente che prende in mano, esatto, il timone. Nel PD invece c'è uno scontro tra giovani, vecchi, rinnovamento. Sta venendo fuori lo scontro generazionale, e attenzione, lo scontro tra culture politiche, perché vorrei ricordare che il PD è la fusione fredda ma riuscita della, chiaro, dei DS, del progressismo cattolico con i postcomunisti. Ora i giornali in edicola. È venerdì 19 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli, c'è chi apre con Orizzonti Europei. È il Sole 24 Ore, Unione Bancaria in due tappe, questo è il titolo di apertura di prima pagina. Per il Corriere della Sera, la sfida Merkel-Hollande. Repubblica, Europa, attacco della Merkel. La Stampa, Unione Europea, l'Italia completi il lavoro. Il Manifesto, Fiscal Combat, si gioca sul Fiscal Compact, e c'è una foto degli scontri ad Atene. Combat, quella parola, tra l'altro ieri c'è stato un morto ad Atene per gli scontri. Merkel, Hollande e scontro, questo è il titolo di apertura del Messaggero, mentre la vicenda di Fini e la casa Monte Carlo per il giornale. Fini scarica la moglie, Monte Carlo amara, titola in prima pagina il giornale appunto. Libero, il gioco d'azzardo di Fini. Il Fatto Quotidiano invece, se Renzi vince, D'Alema fa un partito di sinistra, è una rivelazione che fa Libero, scusate, il Fatto Quotidiano, e c'è anche su Pubblico peraltro. Unità sulle primarie, le primarie in paradiso fiscale, l'Unità che attacca Renzi perché alla raccolta fondi ha invitato un finanziere, organizzata la raccolta fondi da un finanziere che ha fondato una società alle isole Cayman. Questi alcuni dei titoli di apertura, anche Avvenire sull'Europa, l'Europa torna strabica e tra poco vedremo di cosa si tratta, mentre Pubblico mette in prima pagina la foto celebre, ricordate quel ragazzo nudo che corre per un Atene tra macerie e devastazione quando è arrivata Angela Merkel, questo ragazzo nudo simboleggia, secondo Pubblico, la legge di stabilità. Cioè ci rende nudi in pratica. Voglio partire però da alcune notizie che provengono dal mondo della casta, cosiddetta casta, perché davvero oggi ce ne sono di stuzzicanti, come al sempre poi il venerdì, così passate un weekend rilassante. Allora, la prima riguarda il presidente del Consiglio regionale abruzzese, cioè della regione Lazio. Il presidente del Consiglio del Lazio a tutto gas, in auto blu, 50 multe. Prima pagina del Messaggero, Vittorio Buongiorno.

tutta la propria credibilità sulla costruzione di un soggetto politico sì. unico del centrodestra. Potrebbe essere che in questo momento non tutti siano intenzionati a proseguire l'attività e la credibilità di questo partito. No, ma questo sì, ma secondo lei, cioè, quando dice non è farina nel suo sacco, cioè, parla per conto di Berlusconi? Ecco, le chiedo questo. Guardi, se la domanda è Berlusconi che le detta la linea, credo di no. Berlusconi non ha bisogno di esegesi fatta da terzi. Normalmente Berlusconi è sufficientemente autonomo dal fare e dal dire quello che crede, ovviamente. Mi ha dato ampia dimostrazione nel corso di questi 20 anni. Che però magari qualcuno voglia, come dire, anticipare delle sensibilità che potrebbero essere di Berlusconi, per essere, c'è sempre in ogni corte c'è sempre chi vuole sembrare più realista del re e che per forzare la mano, cioè per convincere il re a fare quella cosa lì, ecco. Non credo per convincere il re, perché Berlusconi non ha bisogno di essere convinto da nessuno quando vuole fare qualche cosa, è persona che ha un livello di leadership e un grado di autonomia decisionale sì. che non ha bisogno che nessuno lo spinga in nessuna direzione, ma magari se qualcuno interpreta una sensibilità di Berlusconi e la vuole palesare ai terzi prima che lo stesso Berlusconi la voglia manifestare, come dire, è un modo per mettersi in evidenza una volta di più al re sì. per far parte anche delle corti successive. Allora le faccio sentire quello che ha detto dopo la sua nota di ieri, nella quale lei parlava di non è farina del suo sacco. Daniela Santanchè, che era la zanzara da Giuseppe Cruciani, ha parlato così. Capisco che c'è un maschilismo intimo e che quindi gli uomini fanno fatica a pensare che le donne abbiano un cervello. Lei è un maschilista, praticamente. Parlava di lei e anche poi di Gasparri. È maschilismo... Vabbè, metto in tasca anche questo. Cioè lei ha detto che la Santanchè non ha un cervello proprio, parla per conto d'altri, e quindi la Santanchè dice maschilismo, insomma, pensa che io non possa avere un'idea mia. Oh beh, sì, per questo ci sono anche tanti uomini che rientrano nella categoria della cortigianeria, quindi non è certamente una questione di genere, è una questione di stile. È una cortigiana comunque, insomma, secondo lei? Credo che si possa dire che faccia parte di una corte ristretta, no? La credibilità in politica si costruisce con la sequenzialità degli atti. Io ricordo che Daniela Santanchè è stato il candidato di un partito diverso dal Popolo della Libertà contro il Popolo della Libertà e contro Silvio Berlusconi alle ultime elezioni la destra di Storace, e per distinguere la propria visibilità in quel momento riteneva opportuno fare politica attaccando personalmente Silvio Berlusconi, che voglio ricordare era definito, a proposito, a volte le citazioni ritornano, anche in quel caso l'accusa facile era quella di maschilismo, perché evidentemente il refrain è sempre lo stesso, veniva accusato di essere uomo che giudicava le donne solo dalla loro disponibilità ad essere orizzontale. Sì, è vero, questa frase della Santanchè, vede le donne solo in orizzontale, ecco, così, allora, così la Santanchè. Devo dire se la Santanchè deve utilizzare qualche arma di attacco politico vero, che rinnovi un po' il suo panorama. Senta, finiamo sempre sul... Ma è chiaro, ma perché Berlusconi è silente? Perché Berlusconi sta zitto? Dovrebbe dire qualcosa? Dovrebbe dire mi candido? Lei sente un vuoto da parte di Berlusconi? Io credo che uno degli elementi che stanno agitando il Popolo della Libertà al proprio interno è certamente questa incertezza riguardo anche all'individuazione della leadership elettorale che dovremmo esprimere. Ma perché non parla? Cioè lei oggi noi stiamo registrando quotidianamente una battaglia elettorale legittima e interessante, perché in politica ogni confronto è interessante anche quando viene fatto negli altri schieramenti, per esempio tra Renzi e Bersani, sì. E ogni giorno giornali, televisioni giustamente e correttamente danno ai cittadini italiani informazioni sulle diverse posizioni di Renzi e Bersani, che si stanno contendendo una leadership elettorale per fare il candidato premier. Da voi invece sono solo macerie. Noi in questo momento stiamo assistendo via televisione alla campagna elettorale di altri. Questo perché non abbiamo ancora sciolto dei nodi. È evidente che questo è un tema che va posto all'attenzione del partito con una urgenza. Ma lei si è dato una spiegazione del perché Berlusconi, che tutto si può dire come critiche, ma non che non abbia delle strategie dietro, evidentemente è una strategia quella del silenzio. Lei si nel partito dite, ma perché? Perché in silenzio? Non ve la fate questa domanda? Certamente ce la facciamo. Io immagino che Berlusconi, che è, ha dimostrato, quindi non ha bisogno di dimostrarlo, lo ha già fatto, di essere la persona che ha in Italia in assoluto la maggior percezione degli umori degli italiani e della sensibilità della gente e della piazza, ha probabilmente, nel momento stesso in cui ha posto all'attenzione di tutti la possibilità di una sua ulteriore ricandidatura, valutato come questo possa essere questa volta un crinale davvero importante da superare, perché e quindi sta in silenzio di indisponibilità degli elettori verso la sua figura, non tanto per colpevolizzare la sua figura, ma perché facendo parte di una stagione in cui la richiesta è di rinnovamento, ricandidare per la sesta volta la stessa persona potrebbe non avere lo stesso risultato. Allora, questo è un problema evidentemente, cioè, che ha capito che non è così gradito come in passato. Insomma, la persona ha dimostrato di essere di intelligenza superiore alla media, no? Senta, le chiedo una cosa sulla Lombardia, visto che lei è lombardo. Formigoni andrebbe rottamato anche lui a questo punto? Guardi, Formigoni ha dimostrato, torno sempre a parlare della storia delle persone, perché poi ognuno è figlio di tutto quello che ha fatto. Formigoni ha dimostrato indubitabilmente di essere stato l'uomo di governo più capace che l'Italia abbia avuto negli ultimi 20 anni. Non esiste amministrazione che abbia offerto ai propri cittadini una tale capacità e opportunità di crescita e di sviluppo come Formigoni ha fatto. Però ci sono stati un pochino di scandali ultimamente. Non c'è dubbio che intorno alla sua amministrazione, non stiamo parlando della persona Formigoni, intorno alla sua persona, come spesso avviene nelle stagioni di governo molto prolungate, anche qui torno a parlare magari di corti, succede che l'attenzione e la sensibilità su quello che si sta facendo, come dire, è sfuggita un po', è sfuggita un po' la mano. Il tempo di governo decresce. È sfuggita un po' la mano. Ma questo è quello che è successo, e Formigoni correttamente, credo che è arrivato a questo punto, ha preso atto di una situazione che finiva addirittura per investirlo, non essendo lui coinvolto in nessuna delle vicende fastidiose e odiose che sono emerse alla pubblica opinione, ha deciso di farsi una parte. Un'indagine c'è per Formigoni, certo non l'ultima che ha portato alle dimissioni. Però la domanda è se per il futuro serve Formigoni. Cioè, Formigoni ha già detto non mi ricandido, ma lì c'è in corso uno scontro molto forte. Formigoni che dice piuttosto di dare alla Lega la regione, la do al centro-sinistra, faccio una mia lista, il partito non mi rottamerà. No, vedrà che la lista Formigoni o non ci sarà, o se ci dovesse essere una lista ispirata al presidente Formigoni, certamente non sarebbe alternativo al centro-destra. Porta i voti. Tutto si può pensare meno che Formigoni diventi uno strumento per far vincere gli altri. Ma chi deve essere il candidato? Formigoni, le dico subito, Formigoni pone un problema che io condivido. Formigoni pone il problema della necessità che il Popolo della Libertà e che il centrodestra rappresentato dal Popolo della Libertà non abdichi totalmente alla gestione o alla primazia della gestione in un'area importante del territorio. Quindi che esprima il candidato del Popolo della Libertà. Senta, ultima domanda, il Popolo della Libertà è morto? È finito? Mi auguro di no, ma se dovessimo verificare uno stato di salute non migliorabile, credo che forse sarebbe giusto dare vita ad una opzione del centrodestra più rinnovata, più fresca. Inutile anche lo in sta dicendo caso, lo sta dicendo in un modo elegante, ma è quello che dice la Santanchè. Diciamo moriamo che, tutti, azzerare tutto. Ma io mi rendo conto che è quello che stavo dicendo. Se la Santanchè non parla come ho sostenuto, solo e soltanto per conto proprio, ma interpreta o ritiene di voler interpretare pensieri altrui, io dico che la cosa migliore è prenderne atto e non proseguire, anche in questo caso è una citazione che di questi tempi ricorre, un accanimento terapeutico, ma che si dia vita a qualche cosa di più credibile. Sì, perché certo, dare ai cittadini lo spettacolo di un partito litigioso che discute solo di come chiudere la propria esperienza non certamente non aiuta. No, sull'accanimento terapeutico sì, su Alfano e la Lombardia l'abbiamo già sentita. Grazie onorevole Corsaro per essere grazie stato con voi, noi. Buona giornata. Massimo Corsaro, il vice capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera. Noi tra 5 minuti parliamo del tema incandidabilità delle persone condannate, dei parlamentari condannati. L'onorevole Paniz, che sarà con noi, ha detto: ma in fondo il 3% alla Camera e al Senato sono condannati, una percentuale molto bassa, e quindi non c'è problema. Oggi il Secolo XIX fa un elenco dei parlamentari che col DDL anticorruzione, che non prevede l'incandidabilità per il momento per chi ha una condanna definitiva a 2 anni, si vedrà successivamente se il governo riuscirà a fare qualcosa, il Secolo fa un elenco di tutte le persone che sarebbero salvate. Ci fosse un limite a 2 anni di incandidabilità, quanti sono i parlamentari attualmente in carica che non possono essere ricandidati? Solamente 4, ma in realtà i parlamentari condannati sono ben di più. Vogliamo parlare di questa ipotesi, che in realtà non decolla, sulla incandidabilità dei parlamentari condannati, delle persone che hanno una condanna a 2 anni e 1 giorno in su. Oggi il Secolo XIX apre su questo e fa un'iniziativa che va molto in direzione a quello di cui parliamo oggi. La legge salva tutti, questo è il titolo di prima pagina del Secolo XIX. Sapete cosa scrive Francesco Bonazzi? Tanto rumore per lasciarne a casa 4 forse, perché coi paletti indicati dal disegno di legge anticorruzione dei 17 parlamentari già decorati con condanne definitive non potrebbero essere ricandidati, solo 4, tutti del PDL, sono Giuseppe Ciarrapico, Marcello De Angelis, Salvatore Sciascia, Antonio Tomassini, hanno tutti una condanna definitiva superiore ai 2 anni e 1 giorno. Ecco perché dico 2 anni e 1 giorno, perché si salvano quelli che hanno una condanna a 2 anni, come Marcello Dell'Utri e Vito Bonsignore dell'UDC. E poi si salvano perché non c'è la somma delle condanne. Si salva per esempio Umberto Bossi, che ha una condanna a 8 mesi, una condanna a 1 anno e una a 1 anno e 4 mesi. In totale fanno 3 anni, ma non vale la somma. Ci vuole una condanna, quindi uno può avere 50 condanne tutte a 2 anni e va bene così. E comunque ne parliamo con l'onorevole Maurizio Paniz, buongiorno, del Popolo della Libertà. Buona giornata. Saluto anche l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Buongiorno. Buongiorno. Le posizioni, come sapete, dei partiti e su questo sono molto diverse. Onorevole Paniz, ieri lei ha detto che la percentuale dei condannati in via definitiva in Parlamento più o meno è il 3%, questo... Sono circa 30 su 1000 i parlamentari condannati complessivamente, quindi 3 su 1000 sono circa il 3%. No? 3 su 1000, e quindi lei ha detto una percentuale molto bassa, ma dobbiamo accettare anche l'idea Non dobbiamo accettarla, perché io sono assolutamente favorevole al fatto che le persone che sono state condannate per reati contro la pubblica amministrazione, quale che sia l'entità della pena, non entrino in Parlamento, perché ritengo che il Parlamento debba essere un luogo nel quale arrivano persone, tra virgolette, specchiate. Questo è il mio punto di vista. Poi prendo atto di quello che ha ritenuto di scrivere il Ministro, in questo momento è all'esame del Senato, è stato all'esame del Senato, verrà all'esame della Camera, vedremo se sarà possibile un ulteriore intervento. In un'epoca di emergenza come quella che noi stiamo vivendo adesso, sono addirittura stato favorevole, contro il garantismo che mi contraddistingue sempre, anche a considerare l'incandidabilità di persone che abbiano subito una condanna in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi per lei anche addirittura il primo grado, se sono reati contro la pubblica amministrazione anche il primo grado in sarebbe successo. In un'epoca come questa, che è un'epoca di forte emergenza da questo punto di vista, faccio venir meno un garantismo che peraltro è scritto nella Costituzione, dove c'è una presunzione di innocenza, come tutti sanno, fino alla condanna definitiva. Però lei ha detto il 3% è una percentuale molto bassa, per molti dell'opinione pubblica, per alcuni cittadini, per tanti cittadini non dovrebbe essercene neanche uno, se è vero che il Parlamento dovrebbe rispecchiare il tempio della legalità. E quindi dire una percentuale è una percentuale molto bassa, in realtà. Ma questo è un discorso di carattere generale e di carattere numerico. In Italia ci sono 60 milioni di cittadini italiani e ci sono in questo momento circa 7 milioni di procedimenti pendenti. Se 7 milioni di procedimenti pendenti riguardano anche una pluralità di cittadini, cioè un cittadino ha più procedimenti, io credo che la percentuale sia sostanzialmente rispecchiata in Parlamento come nella vita civile. Ma quindi l'idea che in Parlamento debbano andare i migliori è un'idea utopica, è un'idea sbagliata? No, è un'idea giustissima, sacrosanta. Io ho fatto soltanto una considerazione di carattere numerico, ma come lei ha sentito, io sono assolutamente favorevole che i condannati non entrino in Parlamento. Starei per dire che estendo il più possibile questa disciplina, naturalmente dobbiamo fare alcune distinzioni, perché se una persona viene condannata per un reato di lesioni colpose, cioè un incidente stradale che ha cagionato delle lesioni, mi pare che pensare a un'incandidabilità sia davvero eccessivo. Ha fatto il caso di Beppe Grillo, peraltro. No, Beppe Grillo è condannato non per lesioni colpose, ma per omicidio colposo. Però per un incidente stradale. Sì, ho capito, ma sono più persone, mi pare addirittura, che sono morte, non una sola. Quindi mi pare che il caso sia abbastanza pesante, obiettivamente. Ma le lesioni colpose che io ho fatto, cioè una persona che ha un incidente stradale, cagiona per esempio lesioni guarite in 20-30 giorni, cose di questo genere, può subire sicuramente una condanna. Mi pare sia eccessivo determinare per lui una incandidabilità. Ma coloro che subiscono condanne per reati contro la pubblica amministrazione, cioè per una materia anche assolutamente tipica per chi esercita un'attività istituzionale, mi pare che l'incandidabilità sia doverosa. Io non la estenderei solo ai parlamentari, la estenderei a tutti coloro che hanno un incarico istituzionale, quindi regioni, province, comuni e quant'altro. Onorevole Borghesi, le piace, voi siete spesso accusati di avere una sorta di furia iconoclasta su questo tema, no? Un po' puri, come se esistessero i puri. In realtà i puri non ci sono da nessuna parte. Noi ragioniamo, anche se come è già successo qualche volta ha colpito anche noi, non è che per questo rinunciamo a quel furore, perché è davvero scandaloso. Stavo guardando, ci sono in questo momento tra indagati e condannati 117 parlamentari. Ora a me pare che siamo di fronte a dei numeri che non hanno assolutamente, del tutto inaccettabili. Uno dei motivi per cui noi abbiamo votato contro questo decreto è anche questo dell'incandidabilità, perché bisognava essere ben più severi. Però anche lì, vedi, lei mette insieme indagati e condannati, sa meglio di me che l'indagato. Ma faccio anch'io, guardi, la mia distinzione partirebbe secondo me dal rinvio a giudizio, perché il rinvio a giudizio già per lei un rinvio a giudizio, qualche cosa c'è, perché ci sono due, quello che ha fatto le indagini e un giudice che ha deciso di accettare o meno la proposta di rinvio a giudizio, e io penso che già quello sia, potrebbe essere la discriminante. Era solo per dare comunque il quadro che al di là di tutto siamo in presenza di numeri assolutamente importanti e che dovrebbero far pensare. No, però mi scusi, onorevole Borghesi, lei è un talebano del giustizialismo, con rinvio a giudizio una persona, cioè l'avvocato Panizzi che l'ascolta, dice: ma guardi, va bene il primo grado, per carità, non sono qui a ho sentito che l'onorevole Panizzi parla di primo grado. Per me è quasi una novità, visto le posizioni che esprime il suo partito, per cui va bene la prima condanna dovrebbe già essere un elemento, per il resto è un motivo di opportunità. Secondo me, nel momento in cui uno avesse un rinvio a giudizio, opportunità vorrebbe che si facesse da parte. Onorevole Panizzi, lei che onorevole e avvocato, questo addirittura è spostare l'asticella sempre un po' prima, al rinvio a giudizio dice l'onorevole Borghesi opportunità vuole che uno si dimetta. Ma dipende dal tipo di reato. se uno è rinviato a giudizio per il reato di ingiurie, mi pare che sia veramente fuori del mondo pensare a un'incandidabilità. Allora, mi scusi, le faccio una domanda ribaltandola così. Facciamo, personalizziamola. Marcello Dell'Utri, che ha una condanna definitiva a 2 anni per frode fiscale, fatture false di Publitalia, scrive il Secolo, e però è in appello, sappiamo, per un reato invece ben più grave, l'associazione esterna alla mafia. È tutto bene che si candidi in Parlamento? No, secondo me non è tutto bene che si candidi in Parlamento, non tanto per il reato di fatture false, perché non è un reato contro la pubblica amministrazione, ma per l'altra ipotesi di reato, perché ha avuto comunque una condanna in primo e in secondo grado abbastanza pesante. Quindi bisognerebbe mettere un paletto che vieti a lui. Lo dico con il massimo del rispetto per la sua storia politica, intendiamoci bene, però guardo il dato storico, il dato oggettivo. Non candidabile. Borghesi, però il dato di fatto è che è una legge salva tutti, come scrive il Secolo XIX, cioè sì, che quattro potrebbero, quelli che hanno le condanne superiori a 2 anni, non dovrebbero essere più ricandidati, gli altri tutti avanti? Assolutamente, ma è evidente che che il partito che ne ha più di tutti dentro in questa lista di 117 è una lobby molto potente, perché è come chiedere al boia di ammazzare se stesso, no? È evidente che lì c'è una corrente molto forte che cerca di salvare. La cosa che veramente fa rabbrividire è poi che non è l'incandidabilità, c'è a livello di consigliere comunale, di consigliere provinciale, per questo tipo di reati, per questi reati è già un fatto, quindi non ci si può candidare lì, ma ci si può candidare stona, è assolutamente una distonia che il cittadino comune non può che rilevare, rispetto alla quale non può che arrabbiarsi, secondo me molto giustamente. Poi, se volete, vi darò anche qualche nome delle faccine che compaiono oggi sul Secolo. Sono in totale 17 quelli che hanno condanne definitive in Parlamento per vario titolo, da Berruti, Borghezio, Monsignore, La Malfa, Maroni, Nania, Papania, Naro, Dell'Utri, Carra, Camber e altri. Ovviamente ci sono condanne e condanne, non so, leader della Lega Maroni, che a 4 mesi poi peraltro commutati in pena pecuniaria per resistenza pubblico ufficiale, o Renato Farina, 6 mesi patteggiati per favoreggiamento del sequestro a Womar. Non sono forse paragonabili certamente a Marcello De Angelis, 5 anni per banda armata e associazione sovversiva, questa è la condanna, o Salvatore Sciascia, 2 anni e 6 mesi per corruzione della Guardia di Finanza, lui per esempio, loro due, gli ultimi due sarebbero fuori, hanno pene superiori a 2 anni, Antonio Tomassini invece 3 anni per falso e poi Giuseppe Ciarrapico 3 anni. Poi altri 4 anni e mezzo, di cui 4 condonati per bancarotta del crack ambrosiano. I 4 che sarebbero fuori, secondo il limite dei 2 anni di condanna, sono appunto Ciarrapico, De Angelis, Tomassini e Sciascia. Comunque, ne stiamo discutendo con 2 onorevoli, Maurizio Paniz del Popolo della Libertà e Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Sentirei anche qualche ascoltatore, a cominciare da Sebastiano da Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì. Volevo, se ho capito bene, 3 parlamentari su circa 1000 sono i condannati, sarebbero i soggetti. Credo 30, 30, ah, Paniz, 30, 30. Altrimenti sarebbe stato lo 0,3%. No, Paniz, quanti sono? 30 i parlamentari. Una trentina. 30, 30. Ah, va bene, avevo capito male allora. Ciò posto, volevo notare una cosa. Il legislatore italiano ha sempre avuto la mania di prevedere tutto e il contrario di tutto, una sorta di mania di onniscienza. E questo non è possibile, in tanti altri ordinamenti giuridici che noi ogni tanto tentiamo di scimmiottare, tutto ciò che è possibile, tutto ciò che non è vietato si può fare, sì, o viceversa. Sì. Oggi fare questa legge significa iniziare a creare eccezioni di controeccezioni. L'esempio, ma che vuol dire? Nel senso che vuol dire, non tutti i reati sono uguali, colui il quale per esempio è andato ad occupare le ferrovie, i binari di una stazione per fare una protesta sociale, pubblica, sì, e che è stato condannato, ha tutto il... Ma su questo sono d'accordo, candidato. Io infatti ho citato appunto i reati, certo non si può paragonare i 4 mesi di resistenza pubblico ufficiale di Maroni, quando la Lega ci fu la contestazione, a 5 anni di banda armata e sovversiva, associazione sovversiva di De Angelis, per dire, questo senza dubbio, Sebastiano. Ma quindi, siccome ma i reati... La falsa fatturazione, il discrimen tra l'uno e l'altro, uno, sì, che fa la falsa fatturazione è uno che ha fregato il cittadino, che sì, diritto può avere ad essere candidato? Uno che evade le tasse, che differenza c'è tra chi è andato a fare la rapina a mano armata? Uno ha il coraggio. Quindi di secondo lei, oltre a porre un tetto, bisognerebbe fare un elenco di reati, l'elenco di reati più gravi rispetto all'elenco dei reati meno gravi? La tipologia, certo, del reato. La tipologia del reato. Perché sa, è facile porre un'asticella sul tipo, sulla quantità della condanna. Sulla tipologia dei reati bisognerebbe fare un elenco, immagino, sterminato. Comunque la ringrazio, Sebastiano. Vorrei andare a Milano, da Antonio. Buongiorno a tutti. Sì. Senta, io tutti i giorni sento Radio 24. Sì, bene, volevo bravo. Dire, sulla storia della punibilità e dell'impunibilità dell'individuo, vabbè, ci penseranno la magistratura quello che è, però io tutti i giorni, io da modesto cittadino e operaio, sento che questi signori li chiamano onorevoli. Nel vocabolario, se uno va a leggere, onorevole vuol dire qualcos'altro e non persona che si impropria dei soldi pubblici, persona che... ne combina di cotte e di crude. Lei li chiami deputati, Antonio, ecco, così, così. Deputati, cioè, deputati va bene. Onorevole è il cittadino medio che va a lavorare, che timbra dalla mattina alla sera, quello è un onorevole, come dire la Milano bene di sera, gente che va in giro che usa la coca di qua di là, ma allora quelli che vanno a lavoro dalla mattina alla sera e pagano le tasse, cosa sono questi qua? Sono super, super, super onorevoli. Antonio, lei è straordinario, stia con noi. Maurizio Paniz, le chiedo questo. A lei, io non lo so, non è che ci siamo documentati perché sono tanti paesi al mondo, ma se da noi è il 3%, quante crede che siano i parlamentari con una condanna definitiva in Germania, in Francia, in Gran Bretagna? Ci sono? Non lo so, le faccio una domanda da ignorante. Ci sono, secondo lei? Lo tollerano? Secondo me ci sono. Ci sono. La tipologia del reato però è importante, perché ci sono per reati, io credo, non contro la pubblica amministrazione. Lì sarei drasticissimo. Per reati comuni, ho fatto l'esempio delle ingiurie, ho fatto l'esempio delle lesioni colpose, per queste io avrei una manica molto più larga, perché mi pare assolutamente scorretto impedire di candidarsi e quindi l'esercizio della democrazia per fatti di questo genere. Però concordo sul fatto che in Parlamento debbano intervenire persone specchiate, sì, che il titolo di onorevole sia un titolo importante e che vada conquistato attraverso impegno, serietà e un comportamento che anche dal punto di vista del processo penale debba essere. Perché non fa una battaglia nel partito a dire Dell'Utri non candidiamolo, per esempio? Lei che ne sa, se non sto facendo una battaglia nel partito, ma io la battaglia la faccio parlando a quattro occhi con i miei interlocutori, non attraverso i mezzi di informazione. È molto facile fare come fa l'onorevole Borghesi, che dice bisogna fare questo, fare quest'altro. È stato al governo 2 anni, dal 2006 al 2008, perché non è intervenuto con questa grande battaglia facendo una riforma immediata per l'incandidabilità di persone che Borghesi, avevano determinate anche voi non avete fatto nulla, vabbè, è facile poi dirlo, discutiamo in termini percentuali, il Popolo della Libertà in Parlamento per noi era la prima cosa da fare, naturalmente essendo in una coalizione hanno pensato prima di fare altre cose e poi non c'è stato il tempo perché si è interrotta, ma vorrei dire che dipende dai paesi, la domanda che ha fatto prima al collega, dipende dai paesi, perché nei paesi seri non stanno più in Parlamento quando vengono condannati, perché si dimettono prima, e vorrei ricordare casi che sono così eclatanti. Il primo ministro israeliano Olmert si è dimesso quando è stato addirittura indagato, non ha aspettato la condanna, si è dimesso prima. In Germania il ministro copione la tesi di laurea, si è dimesso, perché questi sono esempi veri di comportamento etico. Non ci dovrebbe neppure essere bisogno di una legge sull'incandidabilità, perché la gente se ne dovrebbe andare prima. Già il doverla fare e non riuscire a farla in questo modo, poi è veramente una barzelletta, dimostra e denota purtroppo a che livello, a che degrado siamo in Italia nella moralità. Un po' così è, però si farà una legge. Antonio, ha sentito? Voglio chiudere con lei. Mi è piaciuto molto il suo sfogo appassionato e vero per certi versi. Ho sentito. Guarda, io sono 41 anni che lavoro. Che lavoro fa lei, Antonio? Io faccio l'autista, sono in coda sulla Milano. sulla tra Agrate e Viale Certosa. Beh, sa che notizia, ogni sa cosa, che notizia, ecco, ogni giorno c'è la coda. Cioè, è massacrante, già viaggiare, chi viaggia tutto il giorno, io ho 41 anni che lo faccio, la gente lo sa, quella che la gente che viaggia. Però è massacrante anche sentire certe notizie, come quella di ieri del 6.800 euro lordi che... solo 6.800 euro. Ma si è dimesso da vice capogruppo dopo quella dichiarazione, si è dimesso da vice capogruppo, che è un po' una pagliacciata, insomma si è dimesso da vice capogruppo dell'UDC, dovrebbero non farlo candidare più. Il problema è che quando non si candiderà più avrà appunto quel molto modesto vitalizio da 6.800 euro lordi, si tratta dell'onorevole Tassone, che era il nostro ospite ieri. Vi ringrazio, mi devo fermare, vi do l'appuntamento a lunedì con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione, Filippo Reggi in regia, ciao!